Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto e bentornati anche da parte di Riccardo Silvi e Valerio Rocchetti. Attenzione, questa sarà una puntata molto bella perché abbiamo una guida veramente speciale. Teresa De Sio. Ciao, salve a tutti. Teresa De Sio, Astigio Vincelli, poi abbiamo spiegato, insomma, però insomma, noi che non siamo più giovincelli abbiamo, prima di iniziata la trasmissione così, ricordato tante cose belle di Teresa De Sio, poi ricordiamo soprattutto una recentissima cosa molto bella che è uscita proprio su Finire il 2008, il suo progetto discografico Sacco e Fuoco in edizione Deluxe. Deluxe, sì. Ci sono due CD, contiene O Paradiso in Terra e tante altre cose belle. Eh sì, tutto il disco Sacco e Fuoco che era uscito un anno fa e che abbiamo pensato di restituire una nuova giovinezza, perché appunto fosse abbastanza giovane già di per sé, e abbiamo aggiunto un nuovo CD dove c'è O Paradiso in Terra, che è una canzone che ho scritto circa un anno e mezzo fa per Raïs, che lui aveva già cantato, registrato in una bellissima versione da Breg secondo il suo stile, che io poi ho ripreso e ho riportato, diciamo, nello stile mio. In più c'è una registrazione di un concerto dal vivo in acustico, dove suoniamo più o meno tutte le canzoni di Sacco e Fuoco, quindi sono due dischi speculari che si rafforzano, speriamo noi, a vicenda. Prodotti e realizzati a impatto zero, mi è stato detto. Sì, non il disco, il video di O Paradiso in Terra, che abbiamo girato con la regia di Giuseppe Gagliardi, è un video, sì, è girato ad impatto zero. Questa è una cosa che mi piace molto dire, perché abbiamo girato questo video adoperando soltanto energia solare, con pannelli fotovoltaici. Non è una cosa impossibile da fare, né molto complessa, ci sono delle strutture, quella che noi abbiamo usato si chiama Ecoluce, che delle strutture anche mobili che vanno in giro a catturare l'energia solare e ad operarla per illuminare delle situazioni, come nel caso nostro il set di questo video, per amplificare concerti o quant'altro, insomma. Penso che sia un piccolissimo gesto. Questo però può essere indicativo, perché visto che pare che la nostra porzione di mondo si avvii verso una grande penuria di energia, allora meno ne consumiamo e più energia pulita mettiamo in circolazione, e meglio dovrebbe essere. Comunque, ai miei coetanei, anche ai più giovani invidiosi di non essere in studio con Teresa De Sio, vi segnalo il suo sito, che è www.teresadesio.com, e ci sono tutte le attività vulcaniche della nostra, che riempiono diverse pagine e annunciano anche un cambio di attività, però questo se lo vorrò dire a lei, perché in questo momento abbiamo un cielo da riempire partendo da una sua riflessione. Dove partiamo? Per aprire scene o scenari, insomma, di qualsiasi genere, mi piaceva citare questa frase di Ottavio Paz, che non è soltanto un grandissimo poeta ma anche un grande saggista, ha scritto anche delle cose molto affascinanti. Economista. Anche economista. Come economista non lo conosco, perché non capisco niente di economia in genere. Quindi. Per conto dell'ONU e per conto della Banca Mondiale. Ah. Bene, lui di tutte queste cose mi viene in mente questa frase molto breve, ma secondo me che significa tante cose, che lui ha scritto, e che è: ogni cosa è una porta, basta la leggera pressione di un pensiero. E siccome mi sembra che noi siamo soffocati da un mondo che non dà più molto credito al pensiero e al pensare, mi sembra che è un buon invito a rimettere in campo questa specialità, diciamo, del genere umano, no? Perché noi esseri umani, la nostra specialità è quella di pensare. E a me sembra che oggi questo fatto venga messo molto in crisi. C'è questa grande ondata, no? Secondo cui più si pensa e meno si agisce, come se si volesse staccare il pensiero dall'azione a favore dell'azione. Quindi il pensiero deve essere breve, deve essere veloce, deve essere sintetico, perché deve lasciare spazio all'agire. A me sinceramente l'azione senza pensiero prima mi fa paura, e infatti vedo moltissimi deficienti a agire. Quindi ricordo per esempio l'impatto che in certi momenti della mia vita ha avuto il verso di uno di questi cantautori, che una sua canzone diceva: tutto il resto è noia. Ah, Califano. Califano. Lo citavo come diciamo così, come introduzione anche a un discorso che avevamo accennato anche prima, perché Ho Paraviso in Terra, la sua canzone, che sostanzialmente contiene un messaggio, cioè volevamo cercare il paradiso da qualche parte, qui il paradiso non ci sta ed è un posto geografico ben preciso. È un po' il contrario di un'altra canzone scritta in napoletano molti decenni fa, in cui invece due vecchi professori di concertino volevano, da San Pietro, dice no, lasciaci perdere che noi stiamo bene dove... Cioè, I due vecchi. Se uno dice con un verso un messaggio di questo genere, mette in circolazione un messaggio che può essere molto forte, se addirittura un messaggio eccentrico può arrivare pure in testa a qualcuno che non è interessato molto a quell'argomento. Sì, magari, voglio dire, qualsiasi messaggio eccentrico sia il benvenuto, insomma, no? Perché sennò decade quello che stavamo dicendo della frase di Ottavio Paz. Quindi, voglio dire, benvenga se una umile e semplice frase come quella che ho scritto in questa canzone, che è: ma noi vogliamo il paradiso in terra, il paradiso non ci sta, noi cerchiamo il paradiso in terra ma non lo possiamo trovare. E se apra delle porte, benvenga. E io penso che l'equilibrio, il buonsenso e non dico la felicità, ma almeno la serenità su questo pianeta Terra, noi ce la dobbiamo costruire. Non ci possiamo aspettare che qualcuno, di trovare qualcuno che sia delegato a consegnarcela. Ce la dobbiamo costruire. Tutti quanti noi, qualsiasi sia la nostra posizione nel mondo, qualsiasi sia la nostra condizione sociale, il nostro ruolo nella società, chi con strumenti potentissimi, e cioè chi ha poteri forti in tutti i campi, sia chi ha strumenti di mediocre gittata, no? Come chi fa l'arte o la musica, o queste cose, sia chi fa piccoli mestieri che altrimenti potrebbero essere considerati quasi invisibili. Però ognuno deve metterci il suo tassello, ci deve mettere la sua cosa per costruirlo, questo paradiso. E costruire il paradiso non è un fatto, non deve evocare soltanto pensieri di bontà o di buonismo, perché non credo che sia con questo che si possa fare il paradiso. Semmai pensieri che hanno a che fare con l'equilibrio tra le cose, che a volte è un fatto di qualche complessità, insomma, per riuscire a... Ma io non ho mai creduto alla medicina di coloro che ci dicono: lasciate perdere le cose che vi dividono, guardate le cose che invece ci uniscono, come se potessimo pensare tutti allo stesso modo su argomenti, appunto, poco fa. Un modo di vedere la vita e il rapporto tra i sessi, ma vedere Dio, oppure cose più banali anche sul modo di condurre la propria vita. Non riesco a, diciamo così, a trovare il modo o l'aiuto o la parola, spesso neanche nella musica, perché in fondo è qualcosa che crea una globalità. Il rock è un fenomeno immenso, è un'omologazione terrificante, perché qualcosa che ci facesse conoscere nelle nostre differenze, ci insegnarci a volerci bene perché siamo differenti. Il rock, quando per esempio offre la sponda alla musica che per parecchi anni è stata definita musica etnica, per esempio apre un piccolo spiraglio su questa cosa, no? Perché se un gruppo suona musica maghrebina, ti sta facendo conoscere una diversità. E ti sta offrendo la possibilità di amarla, questa diversità, di comprenderla, di vederla, insomma. Cioè, però è logico che in tutti i campi o si capiscono bene quali sono le diversità e si descrive il perimetro di questa diversità, e allora soltanto quando questo perimetro è stato ben descritto, allora la si può accettare, condividere, conoscere. Bisogna conoscere, ci vuole in tutte le cose amore e conoscenza, perché la conoscenza senza amore è pura scienza, fredda scienza, e l'amore senza la conoscenza è una passione cieca. Quindi bisogna riuscire a coniugare queste due cose e insieme si possono fare cose. Però, signora, ma lei è cosciente di aver avuto la fortuna di avere appunto dentro la cultura da cui nasce questa comunicazione, questa lingua, questa musica che è quella napoletana, che sembra capace di inserirsi dappertutto. Insomma, sì, sono cosciente. D'arrivare pure sulla luna. Questa, diciamo così, non è il grande aspetto di questa cultura, che diciamo danno tutti quanti morti o così, asserragliata non so che, eppure vive, canta, trasmette, comunica da sempre. Sì, e vive, canta, trasmette e comunica. Non sempre quello che vive, che canta, che trasmette, che comunica è un fatto positivo in assoluto, perché si possono comunicare anche cose non del tutto corrette o accettabili per il resto del mondo. Quindi io sono una donna napoletana, sono una donna meridionale del sud, amo la mia terra e sventolo la ideale bandiera di questa terra come portatrice di valori, però non sono imbevuta di napoletanismo. Cioè non difendo assolutamente sempre a spada tratta tutte le modalità di espressione di Napoli, insomma, perché ci sono cose belle, cose brutte, cose giuste, cose che quando si esprimono raccontano forse la parte migliore dei napoletani, no? Che è forse quella a cui lei faceva riferimento in questo momento. Ci sono altre cose, altre forme anche di musica e di arte che esprimono la parte peggiore, e quella non la possiamo necessariamente accettare ed amare. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Teresa Desio abbiamo parlato di Sacco e Fuoco, nell'edizione uscita a dicembre, edizione deluxe con due CD e tante altre cose interessanti. Però stavamo parlando di bello, di brutto, e avevamo anche accennato a un nuovo piccolo percorso per questi nostri 10 minuti. Da dove partiamo questa volta? È da questa frase che non siamo sicuri da dove... Attribuiamola a Teresa Desio. Attribuiamola, diciamo, come portatrice, ecco, di questa frase, che è una frase che ogni tanto dico nei miei concerti e che mi sembra che possa descrivere abbastanza bene tutta una serie di situazioni conflittuali che ci sono nel mondo in generale. Allora, questa frase dice così: voi immaginate che in un deserto ci sono due tribù. Una tribù ha il pozzo con l'acqua e l'altra non ce l'ha. La tribù che ha il pozzo con l'acqua vuole la pace, ma l'altra vuole l'acqua. E qui si pensa sempre, diciamo, ai massimi sistemi, ai grandi problemi. Adesso proviamo un po' a tradurla in minimi sistemi. Cioè, ci sono due persone, una ha la buona educazione e l'altra non ce l'ha. E, diciamo così, chi deve dire buongiorno per prima alla persona, diciamo così, che... Beh, buongiorno dovrebbe dirlo chi ha un animo gentile, chi pensa che veramente il giorno che arriva potrebbe essere un buon giorno e non un cattivo giorno, chi è più educato, chi vede l'altro per primo. Non so se chi ha più sofferenza o chi meno sofferenza, non lo so dire, questo non lo so dire. Perché, diciamo così, in tante situazioni noi abbiamo, per così dire, sempre come punto di riferimento quelli che sono le leggi, i regolamenti. Questo la legge lo proibisce, questo, diciamo, la legge lo permette, questo non è giusto, questo è giusto, questa è la mala vita, questa è la buona vita, io sono onesto, tu sei disonesto. Ma nel rapporto interpersonale, io l'avevo citato prima, dice la sua canzone volesse a diventare, no? Dicevo, anch'io vorrei incontrare un pescatore che mi prendesse, anche se poi il pescatore che voglio incontrare io per il momento, insomma, sarà qualche altra parte, perché è risuscitato il terzo giorno. Però poi... Vabbè, ma comunque quella è una canzone d'amore, cioè ognuno cerca il suo pescatore. E anche quella, diciamo così, quel gesto del dire io mi ti mangio, però in realtà è una di quelle frasi che nella quotidianità può significare io non ti distruggo, cioè io ti rendo simile a me, io, diciamo così, divento solidarietà con te. In fondo questa è la cultura. Cappera, sì, mangiarsi e rendere simile... Che argomento! Io penso che sia antropofagia. No, vabbè, d'accordo, ma adesso lo stiamo usando in senso molto simbolico, naturalmente. Sì, mangiare l'altro è comunque può essere un gesto, sì, diciamo che lo possiamo interpretare come un gesto di conoscenza, di acquisizione così intima e profonda della natura dell'altro che diventa conoscenza dell'altro. E quando lei canta l'amore nelle sue canzoni, per esempio, non è in fondo questo, permettere a due persone di acquisirsi? Sì. Adesso sì, diciamo che l'amore, non a caso questa canzone che volesse diventare, che è l'ampliamento e la riscrittura che io ho fatto di una ballata popolare. E non a caso parla di un amore che finisce in maniera molto conflittuale, proprio perché uno dei due vuole mangiare l'altro e quindi negargli l'esistenza, no? E quindi a volte l'amore, quando è estremamente totalizzante, può finire con l'accecare veramente, no? Come d'altra parte si dice, c'è anche un detto popolare che l'amore è cieco, e non credo che si riferisca soltanto al fatto che ci si può innamorare di chiunque, ma anche del fatto che una volta innamorati si smette di vedere l'altra persona nella sua interezza e si comincia a vederla come un pezzo di noi stessi, come una nostra protesi quasi. E questo è terribile, no? Perché voglio dire, ogni persona ha la sua dignità, la sua interezza, la sua totalità, e l'amore vero credo che dovrebbe essere fondato sul rispetto totale dell'altra persona. Quindi, come sempre, torniamo alla frase che dicevamo prima, ci vuole amore e conoscenza, cioè amare, passione, ma anche capacità di intervenire con il pensiero critico su se stessi e sull'altra persona, quindi capirle le cose. Questo non è che Teresa Desio, diciamo, a un certo punto che mette sempre il paletto, cioè dopo aver il paletto, sì, oltre non ci andiamo, cioè per esempio no, anche vai qui, andiamo oltre, noi dobbiamo andare. Per esempio, mentre vedo 2 ore al giorno, molto, diciamo così, sembra quasi una litania. Sì, è proprio un elenco di quello che tutti noi vorremmo fare almeno 2 ore, che ci serve, capito? Ci vogliono 2 ore di felicità, 2 ore di tristezza, 2 ore di sesso, 2 ore di passione, 2 ore di vivere da ladri e 2 ore da persone per bene. Ognuno di noi vorrebbe 2 ore maledette, 2 ore impietose, oscure e barbare, e poi quella misura del tempo che si chiama speranza. Sì. Come per dire, vorremmo poi in realtà non succede. Però ci abbiamo la speranza. Forse succederà. Insomma, noi abbiamo la speranza che possa succedere. Perciò la speranza è una misura del tempo, perché sposta in avanti gli obiettivi, e il nostro tempo diventa lo spazio che noi dobbiamo vivere per arrivare a quell'obiettivo, per centrarlo. Quando ho visto arrivare dagli anni 90 in poi questa specie di onda metallara e veder crescere una generazione di italiani, per così dire, che avevano come mezzo espressivo una musica di una sprezza quasi assoluta, in quest'Isola Felice che è rimasta a Napoli, perché a Napoli non è il mio caso, non mi ritrovo in questa descrizione. A Napoli i ragazzi hanno continuato comunque a parlare la musica tradizionale, c'è questo, diciamo così, consenso anche dei giovani napoletani intorno alla musica, alla loro cultura, no? Napoli è una città fortemente stratificata, insomma, dal punto di vista culturale e degli strati sociali, insomma, che sono rappresentati, e quindi esprime, si racconta e si esprime attraverso i ragazzi, attraverso i giovani su più livelli. Da una parte c'è sempre l'amore per la tradizione, dall'altra c'è invece la voglia e il desiderio di romperla, questa tradizione, per fondare qualcosa di nuovo, di diverso. Voglio dire, va bene anche il rock, quello duro, va bene anche la musica metallara, va bene l'hip hop, va bene qualsiasi linguaggio serva per poter dire una parola altra rispetto a quelle che siamo costretti a subire dalla mattina alla sera dalle televisioni, dai giornali. Quindi va bene tutto. La musica popolare è come il rock. Io dico sempre che il folk è il rock del popolo. Vabbè, un po' una forzatura così, diceva, però mi piace molto questa cosa qui, perché la musica folk, la musica popolare, come il rock, ha avuto la capacità di dire quello che, secondo i linguaggi ufficiali, i linguaggi di corte, no? Quelli che una volta erano i linguaggi di corte e che poi sono diventati i linguaggi delle corti televisive, che non può essere detto o che deve essere detto o abbellito in un'altra maniera. Quindi l'abbiamo detto tutto, possiamo salutarvi. Arrivederci. Grazie signora, grazie. Grazie a voi veramente. A chi ci ha aiutato e grazie a voi che ci seguite. A risentirci la settimana prossima.